Riprendo però alcuni elementi a mo' di approfondimento. E intanto mi farei la domanda perché è necessario fare questo sforzo per periodizzare? Il problema è un problema, se volete, essenzialmente pratico. Quando uno studioso si accinge a occuparsi di un certo periodo, la prima cosa che fa è fissare il punto di partenza e il punto d'arrivo. Ovviamente tutto questo ha sempre una quantità di arbitrarietà, perché dipende da varie considerazioni, dipende, ma lo diceva molto bene prima il professor Scirocco, dipende anche dalle idee che stanno sotto. Le periodizzazioni non sono necessariamente asettiche. I momenti di svolta sono momenti di svolta che possono essere accentuati oppure resi meno drastici a seconda di chi si occupa di un determinato periodo. Quindi la necessità della periodizzazione è una necessità anche per chiarire meglio determinati concetti. Questa è una cosa che spesso quando si fanno le lezioni in università non viene compresa molto bene. La necessità di chiarire, la necessità di utilizzare una data come momento di svolta serve perché solo in questo modo si riesce ad organizzare meglio il lavoro, si riesce a concettualizzare meglio. Quindi il parlare di periodizzazione, il decidere una data piuttosto che un'altra, ovviamente motivandola, è già un momento di importante riflessione sul significato della storia. Quindi la periodizzazione è a pieno titolo uno degli elementi importanti dello studio della storia. Ovviamente, ma anche questo lo ha già detto il professor Scirocco, va tenuto presente che la periodizzazione può essere molto diversa sia a seconda delle zone geografiche, sia anche a seconda del tipo di studio che voi fate. Prima si parlava dell'Africa, gli studiosi africani considerano l'inizio dell'età contemporanea nel 1896, perché nel 1896 l'esercito italiano fu sconfitto nella battaglia di Adwa, fu la prima volta che un esercito africano sconfiggeva un esercito europeo e quindi per la storiografia africana questo è l'inizio di una nuova fase, l'inizio dell'età Ci facciamo sempre contemporanea. Noi ci facciamo sempre riconoscere. riconoscere. Quindi, come vedete, le cose sono molto diverse. La periodizzazione della storia dell'Australia evidentemente è molto diversa da una periodizzazione della storia dell'Italia o anche della storia d'Europa. Poi c'è ancora tutto il problema del colonialismo. Noi europei, occidentali in genere, andiamo a considerare spesso la storia dei paesi che sono stati colonizzati dal punto di vista del paese colonizzatore, quindi magari distinguendo le fasi di un determinato governatore, di un determinato modo di rapportarsi con quel territorio coloniale. È ovvio che se voi vedete le cose dal punto di vista della storiografia dei paesi ex coloniali, beh, la periodizzazione diventa a volte anche molto, molto diversa. Poi c'è una differenza anche per settori di studio. Uno dei grandi progressi nello studio della storia economica venne quando i manuali di storia economica che tra 8 e 900 erano tutti tagliati sulla storia politica, incominciarono a darci una periodizzazione propria. In storia economica parlare di età di Luigi Filippo in Francia non ha molto significato, mentre parlare di età delle ferrovie, con tutto quello che l'introduzione delle strade ferrate portava con sé in termini di modificazione economica, ha un altro senso. Gli storici dell'economia tengono più conto di determinati fattori che riguardano il modificarsi dei rapporti economici di quanto spesso non facciano gli storici politici. Ma se poi prendete un altro settore, poniamo la storia della religione o la storia della Chiesa cattolica, evidentemente anche lì avete periodizzazioni molto, molto diverse. Per la Chiesa cattolica il passaggio da un pontefice all'altro ha un significato che per molti altri settori non ha. In qualche caso poi le cose possono anche coincidere. Sicuramente il passaggio tra Benedetto XV e Pio XI a capo della Chiesa cattolica non ha un significato solo per la storia religiosa o per la storia della Chiesa cattolica, ma incide poi profondamente, per esempio, sull'atteggiamento della Chiesa nei confronti in Italia del Partito Popolare e quindi anche su un modo diverso di rapportarsi con la vita politica, quindi anche con una facilitazione, per così dire, poi dell'avvento del fascismo. Quindi a volte queste date possono anche coincidere, ma non è necessariamente così. Poi va anche detta un'altra cosa che è collegata a quello che si diceva prima, cioè alla utilità pratica di fissare dei momenti di periodizzazione. È chiaro che nulla cambia immediatamente, no? Come dicevano i latini, historia non facit saltus, lo sviluppo della storia è sempre uno sviluppo che va per gradi. E allora è chiaro che ammettiamo di prendere per buona la data dell'ottobre del 1492 con la scoperta dell'America, è chiaro che non è che cambi tutto in quella giornata, è un momento che noi prendiamo come punto di svolta per dire che da allora probabilmente iniziano a cambiare determinate cose. Ma i contemporanei poi si accorgono di questo? In genere no. Oggi chi vuole fare una storia degli Stati Uniti d'America parte dall'arrivo dei padri pellegrini con il Mayflower. Beh, per i contemporanei questo è un fatto che passa assolutamente sotto silenzio. Nessuno in quel momento capisce l'importanza di quello che succederà dopo e nessuno lo poteva evidentemente capire. Quindi le date simbolo che noi prendiamo a volte sono anche delle date che vengono costruite dagli storici ex post perché sanno come sono andate a finire le cose. Questo è il grande vantaggio di poter scrivere la storia, di poter dire: ma guarda, contemporanei, queste cose non le hanno capite, sono proprio corti di mente. No, è che semplicemente noi abbiamo il vantaggio di sapere come sono andate a finire le cose. Certo, poi ci sono invece dei momenti in cui gli stessi contemporanei se ne accorgono. Oggi sarebbe difficile dire che la caduta del muro di Berlino non ha segnato un punto di svolta. Però siamo sicuri che fra 100, 200, 300 anni questo evento sarà ancora considerato come fondamentale e magari non si troverà qualche altro elemento che fa capire meglio ai nostri pronipoti lo svolgimento delle cose. Guardate che non sarebbe una cosa inedita. Pensiamo al fatto che quando nel 1876 cade la destra storica in Italia e va al potere alla sinistra, per i contemporanei fu un evento clamoroso, si parla di rivoluzione parlamentare, si pensa che tutto debba cambiare, ci sono preoccupazioni per il futuro, no? Sembra per i contemporanei quello quelle elezioni sono davvero un momento di svolta. Beh, noi oggi, gli storici oggi che si occupano di questo periodo, certo considerano 1876 una data importante, ma non la userebbero come un momento periodizzante, perché si considera che tutto sommato, poi con il trasformismo, con tutta una serie di vicende che seguono dopo, 1876 perde molto di quella carica eversiva che gli avevano voluto attribuire i contemporanei. E di esempi di questo genere se ne potrebbero fare molti. Quando muore Stalin nel 1953, finisce la guerra fredda oppure no? Beh, molti anche contemporanei pensarono che con la morte di Stalin si potesse iniziare quantomeno una fase nuova, e in effetti per tanti versi iniziò davvero una fase nuova. Ma noi oggi siamo portati a considerare che la guerra fredda non finisce nel 1953, anche se le sue caratteristiche poi si modificano, e che invece la guerra fredda finisce con la caduta dell'Unione Sovietica. Ma oggi, ricordo quello che diceva poco fa il professor Scirocco, anche questa data può essere messa in discussione. Si può parlare di guerra fredda nel 1917, come fa André Fontaine nella sua periodizzazione per la storia della guerra fredda. Forse sì, forse no, ma capite che tutte queste cose hanno il grande valore di indurre gli studiosi ad approfondire, a concettualizzare, a rendersi conto dei passaggi della vita politica, sociale, economica, religiosa, e chi più ne ha più ne metta. Questa è l'importanza del fenomeno dello studio della storia per periodizzare, per separare. Poi, naturalmente, essendo la storia figlia del tempo, come si diceva, anche le periodizzazioni possono cambiare. Cioè, una periodizzazione che è, come dire, orientata a una certa visione ideale, non dirò ideologica, del passato, può modificarsi quando si modificano le circostanze. La polemica che c'è stata a proposito del secolo breve, il secolo lungo, evidentemente deriva da diversi modi di affrontare lo studio del passato, e a un diverso peso che si voleva dare a certi fenomeni. Allora, man mano che passa il tempo, lo storico ha il vantaggio di riuscire a vedere le cose sempre più dall'alto, e quindi anche dal punto di vista della periodizzazione, a capire meglio quali sono stati davvero i momenti di svolta. Ma ripeto, i momenti di svolta non sono mai immediati, tanto che qualche anno fa si era pensato di introdurre una sorta di cesura periodizzante tra l'età moderna e l'età contemporanea, introducendo il concetto di età delle rivoluzioni. L'età moderna trascorre lentamente nell'età contemporanea, passando attraverso questo fenomeno dell'età delle rivoluzioni. La rivoluzione, addirittura qualcuno fa partire dal 1688 con la rivoluzione inglese, poi la rivoluzione americana, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, ma anche dall'altra parte, quando finisce tutto questo? Con l'avvento di Napoleone, col 1815 il congresso di Vienna, col 30 e l'indipendenza del Belgio e l'inizio della fine del sistema di Vienna, o addirittura, secondo qualcuno, col 1915, quando si porta a compimento la rivoluzione delle nazionalità e si costituiscono in Europa gli stati nazionali al posto dei grandi imperi multinazionali. Capite che anche qui sono tutte date. Il bello di queste cose è che non si può arrivare a dire io ho ragione e questa è la periodizzazione definitiva, perché dietro la periodizzazione stanno una serie di discorsi che ci fanno riflettere sullo scorrere del tempo, sui mutamenti sui mutamenti della società in cui, che si vanno a studiare, delle società che si vanno a studiare. Concludo su un problema che già il professor Scirocco ha citato. Parlare di storia contemporanea è un po' una contraddizione in termini, perché la storia è lo studio del passato, il contemporaneo è quello che sta avvenendo intorno a noi. Allora, storia contemporanea possiamo considerarlo una espressione corretta solo se intendiamo quel contemporaneo come, diciamo, l'ultima fase della storia, una fase della storia che, come si diceva, può anche andare molto indietro nel tempo. Ed è un vero peccato che oggi gli studiosi di storia contemporanea tendono in gran parte a concentrarsi esclusivamente su quello che avviene dopo il 1945. Questo, per esempio, è un fenomeno che è visibilissimo negli studi di storia delle relazioni internazionali. Quello che avviene fino al 1945 ormai non lo studia quasi più nessuno, ma è un vero peccato perché la storia, come dicevo, è un continuo e quindi senza conoscere la storia dell'Ottocento diventa molto difficile capire certe cose della storia del Novecento. Per certi aspetti siamo molto più contemporanei di alcuni fenomeni dell'Ottocento che ancora ci condizionano di quanto in genere non si creda. Ma questo è un altro discorso, bisognerebbe aprire tutto il discorso sul fatto che si studia poco la storia, soprattutto in Italia, si appiattisce tutto sul contemporaneo inteso in quello che è avvenuto negli ultimi 2 o 3 giorni e quindi si rischia di non capire niente, si rischia di perdere quella dimensione storica che sola ci può far guardare al futuro con una certa speranza. Grazie.